giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie. Ciao a tutti, questo è Giochi sul nostro podcast, siamo io e Stefano, io sono Federico. Io sono Stefano. Ciao Stefano. Ciao. E io quest'oggi si parla solamente di una cosa, molto specifica, infatti conto che il podcast non sia particolarmente lungo, ma è degna di essere raccontata, cioè i 5 milioni di dollari raccolti da un gioco da tavolo, che... Un gioco di carte, però insomma il concetto è che un gioco da tavolo ha racimolato 5 milioni di dollari, ha sbaragliato giochi da tavolo molto più strutturati e molto più grandi, come Zombicide o come Ogre della Steve Jackson Games, e lo ha fatto però un po' barando. Il gioco in questione, se ne è parlato anche con un piccolo articolo scritto da Fabio, è come si chiama? Exploding Kittens, sì, plurale, perché tanti animaletti esplodono. perché barando? Perché Exploding Kittens, cioè, è a tutti gli effetti un gioco da tavolo, anzi un gioco di carte, però perché io dico che sta barando, Stefano? Diciamo che non sappiamo quanti di questi hanno effettivamente deciso di avere il gioco perché interessati al gioco stesso o semplicemente perché interessati all'artwork che c'è dietro, diciamo, in realtà a tutte le persone che stanno dietro questo progetto, perché il disegnatore di questo gioco di carte è The Oatmeal. Chi è The Oatmeal? È un disegnatore che parecchio tempo fa ormai ha deciso di pubblicare una vignetta al giorno, e lo ha fatto in maniera molto regolare, lo ha fatto in maniera molto sagace, perché quello che pubblica è veramente brillante, cioè si vede che dietro questi fumetti c'è una mente molto sveglia che ha un punto di vista, una prospettiva del mondo capace di illuminarti o comunque capace di farti fare un pensiero su quello che ti proponi. Si può dire che è il zero calcare americano, tra virgolette. Beh, o... sì, insomma, sì, simile come... Come stile assolutamente no, cioè, come no, stile, beh, intendevo come... Però sì, effettivamente sì, è il fumettista che sicuramente non per grazie alla sua capacità di fare dei disegni belli, ma proprio per la sua capacità di fotografare la realtà attraverso il fumetto, è riuscito ad affermarsi e a diventare famoso e ad entrare un pochettino nei cuori degli americani. È un po' il concetto di Cartoon Network, se vogliamo. Vabbè. Perché... Che senso il concetto di Cartoon Network? Non so se lo guardate. Comunque Cartoon Network ha la particolarità di avere sempre dei terribili cartoni animati disegnati da uno senza mani. Però nonostante no, questo. Non si chiama hanno... uno senza mani, si chiamano cartoni animati indie. È più figo, capito? Esatto, però a quanto pare, soprattutto in America, hanno un grandissimo seguito, tipo Adventures in Time, mi viene in mente. Oh, bellissimo Adventures in Time. Vabbè, ma come è disegnato da un celebre Ma vabbè. C'è il tipo con le mani tutte, con le braccia tutte mollicce, bellissimo. Hanno fatto anche Adventure Time, Love Letter in versione Adventure Time. Certo. No, e quindi, vabbè. Adventure Time è bellissimo. Sembra, praticamente Adventure Time è scritto da uno in LSD che scrive delle sceneggiature completamente fuori di testa e viene assecondato da una manica di produttori che che fanno tutto quello che dice questo scenografo, e no, scusa, che scenografo, cioè sceneggiatore, e Adventure Time è veramente un trip notevole. Io vi invito a guardarvi almeno un paio di puntate. Ok, la nostra marchetta l'abbiamo fatta. Ma che marchetta, bellissimo. Sì, poi quando fanno i movimenti con le braccia, che hanno le braccia tutte tonde, mi fanno impazzire, vabbè. Comunque, ecco, ritornando a Oatmeal, appunto, sicuramente si distingue non tanto per i disegni, vabbè, insomma, disegni con un suo stile particolari, però niente di che, però, ecco, adesso ho aperto il sito di oatmeal.com, scritto THE, OATMEAL.com, The Oatmeal, se lo vogliamo dire, leggere all'italiana, e una delle vignette parla del demone della reperibilità, cioè esattamente un argomento trattato da Zero Calcare, e si chiama My Mail is a Monster. E parla di questa dell'email e fa delle riflessioni su come funziona l'email. E così sapete anche quando abbiamo registrato per la precisione il podcast, cioè quando questa vignetta è uscita ed era la vignetta del giorno. Tutto questo detto perché? Perché è lui il disegnatore di questo Exploding Kittens. Quali sono le meccaniche che sottendono a questo gioco? Bellissimo. Hai un'idea? sì, lo io, so. Io mi sono fatta come idea. Sì, però. sì. Vabbè, c'è il sito addirittura che spiega tranquillamente proprio come si gioca. È abbastanza un gioco abbastanza banale, diciamo. Già, innanzitutto ha un piccolo difetto tipico nei giochi che bisognerebbe cercare di evitare. C'è una player elimination, giusto? Già. E questo è grave, perché insomma, immaginatevi, vabbè, in un gioco del genere forse no, perché durerà 5 minuti. Il bersaglio sono gli stessi giocatori che giocano a Munchkin, quindi non rompere le palle con player elimination. Però, vabbè, insomma, il gioco funziona in questo modo. C'è questo mazzo, tu ricevi una carta, forse, può darsi, sì, sembri sì, la giri, se è un gatto esploso, finito, eliminato. Ci sono diverse carte che non sono gatti che esplodono, ma che sono carte che permettono di salvarti da questa esplosione. Quindi tu giocando queste carte, siccome il gioco è a turno e bisogna per forza giocare una carta, la questione è che se giochi un gatto che esplode sei fuori dal gioco, quindi in qualche modo devi salvarti. E queste carte speciali che non sono gatte che esplodono ti fanno, diciamo, ti salvano, perché magari o ti fanno saltare il turno. Insomma, lo scopo è essere l'ultimo ad essere eliminato e sfruttare queste carte speciali, diciamo, che sono tutte disegnate in maniera molto simpatica, però sì, saltare il turno, oppure quando ti arriva la carta esplodi puoi giocare la carta speciale per prendere la carta speciale e rimischiarla. Esatto, nel mazzo, tipo esplodo ma faccio questo, non esplodo più, va, così, insomma, così. Questo il gioco nel suo piccolo è questo. Bah. E qui direi ci starebbe bene un po' di grilli sottofondo. Esatto. Una balla di fieno che rotola. Sai quelle balle che si formano nel vecchio West, esatto. Vabbè, si formano anche a casa sotto il mio letto, detta come va detta. Che dire di questo gioco? Boh. Come che so. Dire? È geniale. Allora, questo gioco questo allora, innanzitutto poteva tranquillamente uscire con un libro e fare un casino di soldi, come ha fatto anche in passato, perché questo ragazzo di Oatmeal ha fatto anche un altro Kickstarter in passato. Praticamente lui voleva fare un museo di Tesla, cioè un museo dedicato a Tesla. Sì, forse ho letto qualcosa. E è riuscito a tirar su i soldi per comprare la zona dove avrebbe potuto fare il museo di Tesla, ma poi non aveva i soldi per adesso ce li ha. Questo museo adesso ce li ha perché un po' di tempo fa è uscito fuori con un fumetto di parecchie pagine, cioè di mi pare una decina di pagine, nel quale lui si rivolgeva direttamente a Elon Musk, che alcuni di voi sapranno è il proprietario della Tesla Motors. Che cos'è la Tesla Motors? La Tesla Motors è una società altamente tecnologica che ha l'obiettivo di portare le macchine elettriche di lusso, quindi di alto livello, nella quotidianità, diciamo, di tutte le persone. Diciamo, sono i Ford della macchina elettrica. Lo loro obiettivo è riuscire a ottenere che ogni Una macchina persona abbia elettrica una che, macchina elettrica. ma soprattutto che viaggi non come le macchine elettriche, No, no, non come ci immaginiamo le quelle che macchine ci immaginiamo elettriche. noi, le macchine elettriche, tipo una versione ancora più brutta di una macchinina quella per il golf. No, no, lui, cioè, fa delle signore macchine, se le vedete sono proprio molto belle. E tra l'altro hanno anche il bottone magico, sai, no? Qual è il bottone Hanno. magico? Hanno un bottone praticamente che tu lo premi e la macchina schizza da 0 a 60 miglia ora, 80 miglia Ah, orari in un sì, attimo. fanno da È 0 a presente? 100 in pochissimi secondi perché Però. avendo la potenza cioè non avendo marce, non avendo niente, È solo corrente che passa, sì, no? è corrente che tu più ne dai e quella più va, non c'è. E quindi c'è sto bottone che è tipo della velocità smodata, me lo sono immaginato, dove tu praticamente sei al semaforo e c'è il verde, schiacci sto bottone, bam, e parti velocissimo. E c'è un video fighissimo che vi invito a vedere, dove ci sono la reazione dei tizi che non sapevano assolutamente di questo bottone, con il tizio che dice, ah, c'è questa macchina bellissima, c'è sto bottone, e niente, parte, va velocissimo, ok, facciamolo, bam, e vedere la faccia così delle vecchiette. Così, bellissimo, comunque è Eh beh, un però ad esempio. oggi sono macchine, diciamo, di assoluto lusso, cioè mi pare che la base costi Sì, una sono macchine quarantina di mila sportive euro, però. ma Sì. proprio la base, poi dopo a salire fino anche a 150-200 mila euro. Comunque, questi chi sono? La Tesla Motors, il proprietario è Elon Musk e Oatmeal, che è questo disegnatore, ha fatto questo fumetto. E ha chiesto espressamente a Elon Musk di finanziare con una donazione il museo, e a quanto pare Elon Musk ha risposto positivamente e ha dato una quantità di soldi, no, che onestamente non... Però ecco, questa persona qua è molto avvezza a Kickstarter, al mondo del riuscire a tirar su dei soldi Crowdfunding, diciamo, in del crowdfunding. maniera che arrivino dalla popolazione, dal crowd. E sarebbe tranquillamente potuto uscire con un suo nuovo libro, una sua nuova raccolta, e invece ha deciso di uscire con un gioco da tavolo, anzi, diciamo con un gioco di carte. È un fottuto genio, perché non è che ha fatto un gioco di carte dove devi essere un gamer per poterci giocare. No, ha fatto semplicemente un gioco di carte che tutti possono giocare, perché fondamentalmente quello che devi fare è pesca carta, gioca carta. Che a me mi cascano le palle, mi rotolano via giù per la discesa. Però i non giocatori, se gli dici, ah, questo gioco funziona così, pesca carta, gioca carta, e fondamentalmente è una versione nascosta del gioco dell'oca, nel senso che, no, perché lo dico? Perché è nel momento in cui tu mescoli il mazzo e lo hai mescolato, il mazzo lo sa già come finisce la partita, perché è vero che ci sono alcune scelte non particolarmente difficili, ma sono scelte talmente banali che è stupido cannarle. Cioè, è impossibile che tu dici, ah, cacchio, ho pescato l'Exploding Kitten, cioè, quindi sarei eliminato. Cosa faccio? Gioco quella che mi salva oppure non lo gioco? Sì, certo, Magari la gioco, sono cioè, scelte. oppure tipo, vabbè, insomma, l'idea è proprio questa, cioè quella di dire facciamo un'attività. Cioè, il loro obiettivo è dire, vi do un gioco che ci giocate, vi fate due risate perché ci sono i miei disegni. Lo raccontate dopo averci giocato. Ah, quando è uscito fuori Larry Potato Cat, abbiamo riso tutti quanti perché è un gatto a forma di patata, un peloso. Mamma mia, sto già scoppiando a ridere. Lo so, vabbè, dai, insomma. Dopo c'è l'Overway, lo sta leggendo adesso, sono i Rainbow Ralphin Cat, Sì. No, a me piace molto Overway quello Kitty Cat. lì, l'unicorno il taco nell'unicorno, vabbè. Taco Cat. Taco Cat, sì. Sono un palindromo, che dice sono un palindromo. Taco Cat. Bello, sì. E chiaramente poi questo qui è diventato istantaneamente un oggetto di culto. Cioè, se ce l'hai sei figo, se non ce l'hai non sei figo. Quindi ha generato istantaneamente una sorta di frenesia di condividi la cosa, tipo, ah, figo, io l'ho supportato e quindi ce l'avrò, lo pubblico ovunque possa, tutte le persone che lo vedono non possono non supportarlo, perché anche perché poi costa $16, una cosa così, quindi una roba super banale. E quindi vogliamo dare un po' di numeri? Siamo arrivati a 5 milioni e sì. 335 mila euro per un totale complessivo di 135 mila becker. Ti faccio presente che questo stronzo ha guadagnato 1000 euro da quando abbiamo cominciato a parlare. Cioè, quando abbiamo cominciato a parlare era a 5 milioni 334 mila euro. Brutta merda. Vabbè, comunque. Non credo che nessuno di noi lo prenderà questo gioco. No, io non lo prendo. Non credo. Non lo prendo proprio. No, aspetta, però stavo guardando. Ah, $20, sì. Con anche il delivery anche a breve, nel senso che loro sapevano già che avrebbero fatto il founding e quindi hanno tutto quello che c'era da fare, ce l'hanno. Dovranno al massimo sviluppare un pochettino i Trash Goals e ecco, sto leggendo in questo momento. Vabbè, ormai è finito, manca due settimane. Hanno superato il most backed card game ever, poi il most backed game ever. Ah, vedi, e poi il most backed campaign ever. Vedi che ti dicevo che campaign hanno fatto veramente il botto. Cioè, sono riusciti a fare la campagna più supportata. Cioè, la campagna vuol dire di qualsiasi a confronto, quindi, con, che ne so, i film, la tecnologia. Beh, cacchio, questo guarda che dal punto di vista del riverbero di news potrebbe uscire notevolmente fuori dal discorso giocatori o nerd in generale. Cioè, sì, dici, magari potrebbe rilanciare un po' il mondo del gioco. Cavolo, cioè, se ne parlerà anche, che ne so, un Wired, che solitamente non parla di... No, beh, Wired forse ho preso l'esempio sbagliato, perché intanto ne parla di giochi da tavolo. Sono curioso di vedere se magari qui in Europa viene preso, tipo, non so, dalla Yellow, piuttosto che da una casa che decide magari di farne... delle copie per il mercato europeo. Ma sai, purtroppo qui si parla di sfruttare un IP, cioè sfruttare un intellectual property, e quindi se non conosco i numeri di chi segue Hotmail in Europa. Io per esempio lo conoscevo e ce l'ho sul mio feed RSS, però adesso non impazzisco, non è che se mi fa il gioco dico ah, cacchio, 8000. Se invece fanno il gioco su Zero Calcare forse ci faccio un piacere. E niente, poi chiaramente poi tutti gli stretch goal hanno innescato nell'arco di pochissimo tempo anche l'effetto tipo oddio, non me lo posso perdere. Cioè, se prima era solamente un gioco, adesso c'è l'espansione aggiunta, un altro deck che è giocabile a parte, e che quindi fondamentalmente con $20 non prendi più un singolo gioco, ma prendi due copie differenti dello stesso gioco per giocare con più gente, eccetera, e li puoi combinare fra di loro. Ti stai quasi convincendo a prenderla? Quasi. No. E quindi ecco, insomma, io direi che un applauso per la parte marketing, che sicuramente è stata gestita molto bene. Siamo contenti o no del fatto che comunque si tratti di un gioco da tavolo? Possiamo vantare possiamo millantare questa cosa, il progetto più... Sì, più che altro sono un po' preoccupato dal fatto che questo progetto ha avuto moltissimo successo, adesso non vorrei che nascessero un miliardo di cloni di questo gioco che sperano, come era successo anche per Cards Against Humanity, no? Dove praticamente, vabbè, questo Cards Against Humanity è stato un progetto nato su Kickstarter, è un gioco che ha avuto notevole successo, non mi spiego perché, ma va bene, e tanto che io l'ho visto giocare anche dopo da dei miei... lo spiego io, vai tranquillo. anche, l'ho visto giocare anche da dei miei amici che assolutamente non sono gamer, cioè tipo in pausa pranzo giocavano a sto gioco e dicevo vabbè, e quindi cioè, è abbastanza diffuso come, come gioco, e quello che è successo è che poi nel periodo subito successivo a questo gioco su Kickstarter sono usciti un po' di progetti che erano tipo Cars Against Humanity, cioè praticamente era lo stesso gioco ma cambiava, che ne so, una minima cosa giusto per farlo un po' diverso, però era evidentissimo che era una copia di quel gioco. Quindi ora mi immagino che succederà più o meno la stessa pazzia, insomma, tutti diranno facciamo un gioco simile, via. Ma in realtà giochi simili precedenti, anche postumi, io me li aspetto, perché comunque il mondo è pieno di persone che pensano di aver inventato il gioco del mondo, del gioco definitivo, e inventano fondamentalmente un gioco a carte. Uno. Ma magari inventassero uno. Cioè, e quindi ma non mi preoccupa minimamente, soprattutto perché vabbè, il tipo di visibilità che avrebbero sarebbe minima. Cards Against Humanity, visto che l'hai tirato fuori, ti dico solo che è il gioco per eccellenza. Cioè, allora, innanzitutto la meccanica è Apples to Apples. Chi ci ha giocato bene, sì, chi non ci ha giocato, è semplicemente è un gioco dove si associano due concetti che si pensano separati, e poi chi ha associato questi concetti in maniera più divertente, più ironica e quant'altro viene votato, chi viene votato di più alla fine prende più punti in quel turno e vince nel lungo periodo, vince la partita. E Cards Against Humanity prende questa cosa delle associazioni fra dei concetti e la porta in versione politically incorrect, il che rende tutto ancora più comico, ancora più divertente, ti fa fare questa sorta di corticircuiti di significato, che può essere anche divertente pensare a delle cose che hai sempre tenuto in compartimenti separati, pensarle unite o collegate, e poi consente una cosa che stai molto sottovalutando, cioè ti consente di essere stronzo o comunque bastardo, o comunque di dire delle cose che altrimenti non diresti mai, tipo razziste, cose contro la religione, cose così, solamente perché sono le carte che te lo fanno dire. Cioè tu c'avevi quelle carte lì e dici vabbè, ma ragazzi, io c'avevo queste carte qua, ho dovuto per forza imprecare contro la Madonna. Invece come dire, Non è il gioco che te lo fa fare, e quindi tu vivi questa esperienza di liberatoria del poterti giustificare del fatto che è il gioco che te lo ha fatto fare. Sì. Non a caso si chiama Cards Against Humanity, cioè carte contro l'umanità. E ti posso confermare che amici miei inglesi che non sono gamer ci giocano a palla e sono presi benissimo. Infatti, sapendo che sono amante dei giochi, mi hanno detto insomma, ti piace Cards Against Humanity? Ho detto beh sì, vabbè, lo conosco, però insomma, ho visto di vabbè. Cioè, se proprio devo giocare a un gioco dove devo dire delle cose cattive, a questo punto gioco a Say Anything. C'ho la mia lavagnetta con il mio pennarello dove posso scrivere tutto quello che voglio. A sto punto mi prendo la responsabilità di quello che scrivo, non delego la responsabilità alle carte. Comunque, a proposito di delegare la responsabilità alle carte, qui non è il gioco che ha vinto, qui ha vinto una sorta di isteria di massa per questo disegnatore, che ha innescato quello che Kickstarter sta a fare molto bene, cioè l'effetto valanga, cioè l'effetto oh mio Dio, tante persone l'hanno fatto, hanno sbloccato dei contenuti, o comunque hanno sbloccato degli stretch goal che lo rendono ancora più appetibile. Altre persone che arrivano, che sbloccano ulteriori stretch goal, che parlano ancora, che parlano su Facebook di quanto sia figo Exploding Kittens, e parte l'effetto valanga. Faccio presente che mancano ancora 15 giorni, e solitamente uno dei picchi più grandi che riceve un progetto è a 48 ore dalla fine, perché Kickstarter manda a tutti quelli che hanno messo la stellina con il remind me, manda il reminder che gli dice guarda che fra due giorni scade Exploding Kittens, cosa fai, lo supporti oppure no? Lì vedremo, secondo me, l'isteria di massa farsi farsi ancora più acuta. Sì. Probabilmente non penso che riusciranno a raddoppiare, ma il trend secondo me, insomma, non è. Andiamo a vedere su KickTrack e poi dopo chiudiamo con Sì, io guardando. volevo solo fare un paragone con un gioco invece francese di cui probabilmente nessuno ha sentito parlare, che si chiama Les Poilus, che vuol dire i barbuti, i pelosi. Non so come pronunci il Le francese tu. poilus, cioè i pelosi vuol dire, che in realtà era il nome con cui si chiamavano i soldati francesi nella prima guerra mondiale, ed è praticamente un gioco di carte cooperativo che è caratterizzato da dei disegni molto belli, ma in realtà è balzato alle cronache, secondo me venderà un casino solo per questo. Ma in realtà il gioco, boh, forse mi interessa, spero di riuscire ad avere una copia. È stato disegnato da uno dei disegnatori di Charlie. Aspetta, Ah, ecco qual questo. è la peculiarità. Ok, quindi praticamente è forse È uno degli stato ultimi disegnato da uno di lavori di quelli di Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, per cui sì, uno di questi che appunto è morto, e quindi è Ah, uno degli proprio, ultimi suoi quindi lavori. una persona che poi ha perso la vita. Esatto, e quindi mi uscirà a Cannes, mi immagino, siccome l'editore tra l'altro non è neanche molto grande e neanche molto famoso, Sweet qualcosa si chiama, non so, mai sentito. Comunque mi immagino a Cannes che insomma andrà veramente a ruba, non so quante copie ci saranno, però insomma, da Uscirà a vedere. Cannes? Cioè a Cannes Per Cannes, perché il Festival di Sì. Cannes, non quello del cinema, ma quello dei giochi, ci sarà, Ah, ecco, ci sarà a fine febbraio, mi pare. Sì, fine febbraio, e lì escono un po' di novità del mercato francese, tra virgolette, che fa un po' come sempre fanno i francesi, le cose per i fatti suoi, no? Sì. E quindi no, vabbè, uscirà appunto questo Le Poilu, che appunto, quando ho visto che la scatola era proprio il classico gioco da zaino di quelli che recensisco io, ho detto no, questo lo devo avere assolutamente. Poi c'ha dei disegni fighissimi. E vabbè, io Charlie Hebdo mi ha fatto cagare, devo dire, cioè per In che carità, senso? adesso. Non nel senso, vabbè, il giornale in sé proprio non lo capisco, cioè, non mi piace per nulla, capisco che il Beh, gesto vada. l'espressione molto radicale della satira. Capisco che il gesto vada, per carità, condannato e tutto, però io, cioè, io leggevo Cuore, qua siamo anni luce, lontani da Cuore, non so se ti ricordi il giornale, No, vabbè. io con, come dire, con O dal insomma. Vernacoliere, per Non, dire. cioè, nella peggiore delle ipotesi ho letto una pagina del Verracolliere pubblicata da un mio amico su Sì. Facebook, ma non sono un amante della satira, quindi di solito non leggo roba di satira. Vabbè, comunque sì, però la cosa interessante è che questi disegni sono veramente molto carini, l'idea di base è molto carina perché è un cooperativo in cui tu sei un soldato e tutti i personaggi sono in realtà degli amici che si conoscevano da prima della guerra, c'è pure tutto uno sfondo, e praticamente lo scopo è vincere, cioè nel senso sopravvivere alla guerra tutti insieme, se muore uno perdono tutti praticamente, quindi è il classico cooperativo, boh, carina come idea. C'è un sottotitolo del gioco che è l'amicizia vince sulla guerra, e tra l'altro questo messaggio con il fatto che l'ha disegnato il tizio che poi è morto in questa tragedia, se ci Sì, si pensi, è carica di un veramente, si carica di un significato significato mostruoso. maggiore, quindi incredibile, cioè, secondo me quel gioco bisogna averlo in ogni caso, e quindi Te boh, dici proprio come pietra miliare, diciamo, di un pezzo di sì, no, storia. veramente bello, sì, come mi piace, cioè, tutto questo, il modo con cui si Come combina si sono tutto quanto. incastrate le cose, È dici? incredibile, è Mi incredibile. sta chiam quel Altro gioco mi sta chiamando. che gatti che esplodono. E comunque, cioè, mi sembrava carino parlarne in questa puntata, appunto perché in America succede questo, 5 milioni di cose, in Francia zitti zitti c'è sta cosa, magari nessuno di voi ne ha sentito parlare, però boh, No, è in interessante. effetti veramente mi arriva fulmine a ciel sereno. Quindi così. Va bene, allora, con uno sguardo all'attuale Kickstarter esplosivo, che esplosivo, fra parentesi, qui KickTrack dice che probabilmente cioè sta navigando verso i 10 Ah, milioni di euro, porca, di vediamo. dollari, wow. Scusate, sì, di dollari, e con una media di giornaliera di soldi buttati dentro di 333 mila dollari al giorno fanno Cioè, questi. Considerate che se andate adesso su Kickstarter.com, nella sezione What's Popular c'è Exploding Kittens, cioè io penso che sia penso che ci sia la prima volta che vedo un gioco, da tavolo. Quella sezione. No, beh, forse Ogre e Zombicide hanno avuto il loro momento. E sì, comunque, cioè, basta parlare perché eravamo quando l'ho detto 5.334.000, adesso è 5.337.000, cioè, insomma, basta parlare perché sennò rosico. Va bene, grazie della vostra attenzione, cari amici di Giochi sul nostro tavolo. Da Federico è tutto, una buona serata. Ciao da Stefano e alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao. Se oltre a giocare dalla mattina alla sera volete anche gentilmente donarci una sigla di inizio e una di fine fatte da voi, noi lo apprezzeremo moltissimo. Spedite tutto a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie della gentile attenzione.